fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. Appuntamento imperdibile ormai del nostro sabato notte, 2:11 del mattino, sabato 17 novembre del 2018, perché ci piace anche essere un po' didascalici e precisi. Dicevo, appuntamento imperdibile, quello con le nostre, come chiamarle, ormai amiche a riduttivo, ormai compagni a riduttivo, non lo so, come vi definireste? Come ci definiamo, Cristina? Io direi talismani anche un po', perché talismani? Un po' talismani, perché se non vi vediamo la serata non è la stessa cosa. È vero. Quindi è un po', sai, a volte ti attacchi a qualcosa, nel senso che ti devi affidare a qualcosa di sicuro, e insomma vederle ci fa sempre piacere, ovviamente. E poi ci dà sempre un qualcosa di più alla nostra serata, e anche perché portano allegria. No, sicuramente allegria, però nel senso è neanche come dire, neanche un abbassamento delle tasse al 5% domani mattina porterebbe così tanto traffico e pubblico come abbiamo qui noi davanti ai nostri vetri quando loro ci vengono si a trovare. Si stanno aggrappando i vetri. Sì, si aggrappano. Guarda quello con la cuffietta lilla. Brava, carino, brava. Si aggrappano. E non vogliamo sapere quanti figli sono nati in questo aggrappamento, perché insomma è anche un per aggrappamento fortuna abbastanza... nemmeno nessuno, eh? No, nessuno, cioè, no, nessuno. No. Beh, nessuno riconosciuto, non lo sapremo mai. No, e lo dico io. Ah, ok, ok. Ovviamente parliamo delle nostre due amiche fedelissime, Grace e Cristina, che sono tornate ai nostri microfoni, o meglio Grace in diretta e Cristina come presenza fisica e psicologica, perché non avremo mai il piacere di sentire la sua voce al microfono, perché forse insomma, stasera ci riusciamo. No, secondo me no, perché lei ha firmato un contratto di riservatezza con qualcuno che non abbiamo ancora capito chi è, ma esatto. ha detto esatto, l'abbiamo fregata. Dai, mettiti lì davanti al microfono, anche tu fai sentire la tua voce sensual. Non sono in grado stasera. Non è in grado. Però ho già mangiato la pasta asciutta prima. Ah, okay. Però già dicendo non sono in grado ha dato modo di capire la sua voce, di capire qualcosa in più di lei. Allora loro ovviamente vengono da, lo sapete già ma ve lo ricordiamo, vengono da Bedizzole, fedelissime del nostro locale, fedelissime del nostro spazio Risto Radio, per insomma dare la loro visione delle cose, del mondo e di come vanno. E intanto come va? Perché benissimo, insomma, giusto anche ripartire dal come va. Bene, tutto bene. Tutto bene. Sì. Vedo che stasera la serata è molto particolare. Sì, assolutamente sì, anche perché loro ho notato, diciamo, questi maschietti, non so, stasera, ma cosa hanno mangiato stasera? Ma è il freddo, okay. Siccome sono allora scese, sono siccome sono scese le temperature, c'è più bisogno di contatto fisico e esatto. Di abbracci. Tutti affettuosi. Esatto, tutti affettuosi, affettuosi e coccolosi, oppure un piccolo ritorno all'infanzia, a quando giocavamo con i peluche, quindi ci manca un po' quel modo lì. E con gli orsacchiotti, e quindi ci manca un po' quel tipo di contatto, e lo andiamo a cercare nell'altrui sesso. Quindi tu vorresti dire che noi stasera siamo due orsacchiotte? Ma non lo so, dipende come vi sentite voi, magari tanti vi vedono così o vorrebbero vedervi tali. Beh, può darsi. Diciamo che, no vabbè, questa me la risparmio perché era un po'. La risparmio, insomma. No, stavo dicendo in mente, diciamo che tantissimi vorrebbero avervi vicini al loro letto per riposare e dormire stanotte come si fa con i peluche. Ma secondo te riposerebbero? Voi sì, loro magari no, voi riposereste sicuramente. Magari io dopo 2 secondi mi sono già addormentata. Infatti dico, riposereste. A proposito, dai, parliamo anche di questo ritmi di vita. Voi siete animali della notte nella vostra vita normale, chiaramente escludiamo il venerdì e il sabato, oppure vi piace andare a letto presto, riposare, insomma, avere una vita regolata? Allora, purtroppo è regolare. Purtroppo io sono l'anima della notte, perché io lavoro di notte, faccio la bar, sono una barman, e quindi in automatico lavoro di notte, quindi ho sempre a che fare con questi ragazzi di cui mi fanno impazzire leggermente. Sì. Però vabbè, riesco comunque a gestirli, però mi piace il mio lavoro. Sì, allora, sì. Fare la barman è bellissimo, fare la barista è bellissimo, però io non faccio solo la barista. Io ho sempre fatto questo lavoro, cioè radio, per tantissimi anni, come secondo lavoro. perché comunque è la mia passione. Io amo stare a contatto con la gente, mi piace ascoltare la gente e mi piace vedere la gente sorridere. In questo momento c'è la mia amica Cristina che sta ridendo come una pazza. Ora la devo... No, non è che si sta ridendo come una pazza, si sta distruggendo Omero, tutto quello che è distruggibile con una bottiglietta di acqua, acqua naturale. Cioè, si è già rotta un gomito, l'Omero, il radio, l'ulna anche probabilmente, e si è rotta anche delle ossa che nemmeno sapeva di avere e che ha scoperto stasera di avere rompendosele. Perché mai non credevo che si potesse rompere sto pezzo qua di corpo, l'ho scoperto stasera. Tutto Povero. Grazie al tappo della bottiglietta d'acqua naturale che sta facendo perché dei, non riusciva, dei non danni inenarrabili. Ad aprire, capito? Esatto, dei danni inenarrabili. È il mojito che fa danni. Comunque è buono. Il mojito alla fragola. L'avete mai bevuto? Il migliore? Migliore sì, mojito alla fragola. Sì, sì, per me è il migliore. Uh-huh. Sì, sì. Io mi diverto poi a fare il mojito. Ti piace il cocktail? Di tutti i generi, sì, sì. Guardate, allora, in questo momento ci sono fanciulli. Istiga. La Cristina è istigatrice. Fanciulli qui davanti a noi, davanti al nostro, la nostra vetrata, con i cuoricini, che ci fanno i cuoricini, e noi gli manderemo i bacini. Vuoi un bacino? Tieni, te lo mando un bacino in fronte, te lo do però. Sì, guarda, io vi lascio andare, tanto mai sapranno. Guarda, che era indirizzato. Quello c'è una Bex che sta bevendo, una piccola Bex, e poi l'altro, vabbè, eccolo qua, che ne è arrivato un altro. Tutti felici, guardali qua, contenti che ci stanno guardando. Ma secondo te cos'è che va adesso? Se va il cocktail, va, visto che sei barman, va il cocktail, va la birra? Se va il cocktail, quale cocktail va? Cioè, come vedi il consumatore medio oggi? No, il consumatore medio, diciamo, sia birra uh-huh. ne va molto, ma comunque anche cocktail. Comunque il mojito è il primo in classifica. Mojito primo? Sì. E come mai secondo te? Non lo so, perché forse ha questo senso tropicale. Cioè, perdonami, passato anche lo spritz? Cioè, ha superato allora, lo spritz? A prescindere lo spritz, io parlo nel senso, nell'orario lavorativo. Naturalmente quando c'è l'aperitivo, lo spritz apro è il numero uno. Ok, il numero uno. Ma anche se il mojito non è male anche all'aperitivo, durante il serale invece i mojito vanno veramente, veramente tanto. E poi ho notato che ora non è che bevi solo il mojito naturale, ma bevi il mojito alla fragola. Sì, frutto della passione, sta andando forte. Il black mojito con l'anima nera. Cioè, si inventano molte cose e è molto buono, ti dirà. No, è molto, però molto il mojito buono. È il numero uno, a prescindere lo spritz apero, che si certo. sa quando si fa l'aperitivo, lo spritz apero. Io ne faccio talmente tanti che ho perso il conto. Per me farei il giro d'Italia 50 volte a sapere quanti mojito ho fatto nella mia vita. Vabbè. E quanti spritz apero, scusate. Cos'è? Aspetta, un terzo di prosecco, giusto? Un sì. terzo di... Allora, conti 1, 2, 3, 4, sempre con l'apero. Esatto. Uguale, tutte le dosi. Allora, per fare uno spritz perfetto. Bello, mi piace il tutorial dello spritz. Non vuol perfetto. Dire che tu devi caricare. Io intanto ci provo con la Cristina. E caricare di qualsiasi. No, devi essere corretto. Io ti aspetto, braccia aperte. Perché quando ti insegnano, quando vai a scuola di barman, ti insegnano a contare, no? Mm-hmm. E quindi in come effetti, a scuola di ballo, quando sei a latino. In effetti, quando fai lo spritz, non è perché. No, che sta venendo davvero? Vai, Grace, vai avanti. Scusa, io spengo tutto, vai, tu continua, io spengo. Praticamente succede. Qui sta succedendo un casino, ragazzi. La mia amica Cristina. Abbandonato il mio lavoro e la mia postazione per qualcosa di migliore. Vai. Intanto spiego il mio spritz apero. Praticamente non vuol dire che quando fai uno spritz devi mettere più vino, più apero, no. Devi aiuto, contare giustamente. Aiuto. Aiutatelo. Ti sta salendo? No. È tutta una finzione. È tutta scenografia. No, io mi sono innamorato veramente. Io mi sono innamorato di te. Non lo sai, lo so. Voi siete carini però. Sì, siamo una bella coppia. Poi vedi, siamo intonati. Il giallo e nero. Ecco, una cosa in comune avete. Vabbè, il giallo. Il giallo e il nero. E il nero. Bravi. Vedi? Ma noi ci siamo chiamati prima. Cosa vi siete detti? Come ti vesti? Io ho detto come ti vesti, così io mi accordo e mi intono. Ho capito perché ti sei messa il giallo. Ma certo, perché per intonarci uno con l'altra o una con l'altro, scegli tu. Bravo, uno con l'altra. O uno con l'altra o una con l'altro, è uguale. l'altro ti dirò che la Cristina ha una temperatura basale corporea di meno 82. Meno 82? Sì. Perché meno 82? Prova a farti accarezzare dalla Cristina e poi mi dici. Congelata la Cristina. Esatto. Ma sicuramente non potrà avere figli. Ti sei messa in un freezer? Perché non ha. Ti sei messa in un freezer? Non potrà avere figli perché non ha, diciamo, la temperatura ideale. Esatto. Sai che c'era un film che giocava su sta cosa? Che facevano, cioè no, facevano figli, avevano rapporti solamente quando lei aveva la temperatura compresa tra e... Esatto. In effetti, per se vuoi fare un bambino... No, ma lei non ce la, cioè non ce la non farà ce la mai, farà perché mai, è sempre sotto zero, quindi non senti arriverà la mai la temperatura basata. Vedi, lei già... Potrei fare un figlio, lei dici? È a primavera, lei no. È a marzo inoltrato. Lei no, è a Natale, non esce dal Natale. Ho già dato 14 anni fa di una bellissima bambina... E non, vai, darò, vai, vai. E non darò mai più, credimi, basta. Una più che sufficiente. Ah no, non sei quella che è del bis. No. E poi sai io che avrei quando... voluto due gemelli, così in un colpo facevo una cosa sola. L'hai bis? Invece mi è andata male, cioè nel senso ho avuto una... L'hai bissato? Ho avuto una bellissima figlia, che ormai ha 14 anni, è una gran gnocca, posso dirtelo, con due occhi... Il mare non è niente in confronto ai suoi. Bello. Sì, sì, bello, veramente. Bello. Poi posso dire che è proprio una brava bambina, una brava signorina. Ormai è alta, ragazzi. 1,80. Una modella. Quasi, sì, è bellissima mia figlia. Sì. Bene, bene, ci fa piacere. Per fortuna che non ha preso dalla mamma. Cioè, non per dire, no, io sono carina, posso dirlo? No, che sono come carina. Come ti senti tu? Ma mia figlia è proprio bella. Bello, bello, cioè, anche perché non è un parere di parte, diciamo così, che sarebbe facile esserlo, e invece no, è proprio sincero. Cristina, si sente... può dirtelo come mia figlia. No, ma si sente che è sincero, non ho bisogno di altre conferme, perché non è il classico. Infatti mia figlia quello. Quando vede Cristina, dov'è la mia grande gnocca? Ah sì? Sì. E si chiamano così? Sì, si chiamano così. Loro teneramente, così. Teneramente. Sì. C'è questo dov'è rapporto. La mia gnocca? Vero, Cri? È bella, né? Sì, in effetti ha le gambe talmente lunghe che a me arrivano al mio bacino, posso sì, dirlo? Sì, sì. Sì, infatti tante volte dico, infatti Mami. Lei potrebbe fare la modella. Sì, ma non vuole. E cosa vorrebbe fare? No, lei studia parrucchiera e forse studierà canto e voglio che un giorno sia una protagonista di Amici. Ah, ha già deciso Amici, tra sì. Tutti Amici. Sì, sì. Ok. Vabbè, speriamo che ci arrivi. Cantare, ha una voce bellissima. Speriamo che ci arrivi allora. Anch'io cantavo tanti anni fa. Ora canto solo. Però poi hai donato la voce a lei, giustamente. Esatto, hai tramandato. Sì, ma lei è ancora migliore della mia, credimi. Sì. Ha un altro timbro e veramente ti fa venire i brividi. Bene, bene, la vorremmo conoscere con più quando avrà 18 anni, perché non mi sembra il posto ideale per portarcela. No, anche meno di 18 anni, credimi. Anche meno, sì, la porti prima. Oh già, sì, sì. La porti prima, va bene, va bene. Ci sono questi due ragazzi che messaggi criptati. Ci stanno scrivendo sul vetro. Non ho capito cosa questo... Io questo l'ho capito, però questo con capito. La linguetta cos'è? Cos'è quel messaggio con la linguetta? Cosa vuol dire, cara Cristina, hai un po' di prezzemolo tra i denti. Questo stavo dicendo. Quindi lui sta dicendo che quello. Deve usare lo stuzzicadente. Esatto, deve usare o lo stuzzicadente o il filo interdentale. Una Bex, o un filo se non interdentale. Sbaglio, non facciamo pubblicità alla birra. Come? La fronte contro il vetro. La fronte sta adesso questo ti ha ricordato ancora questo? Ti sta buttando i baci, Cri. Guardalo. Veramente. La fronte contro il vetro vuol dire vorrei essere il tuo moscerino a luglio. Sono questi due protagonisti dell'inizio serata. E tu la mia Renault. Vedi? Ricorda tutto, ricorda ogni dettaglio. Sono due ragazzi che dall'inizio serata che l'hanno puntata. Ah, sì, ok. Hai capito? Insomma, anche virgolettata, punto interrogativata, punto esclamato. Cioè, hanno fatto tutta la punteggiatura, secondo me, sulla Cristina. Praticamente tutta sera che non so cosa stanno facendo. Però sappi che li hai visti pure tu, lo sai? Sì. Certo, quelli visti. Erano quelli quando eravamo lì. No, ma io vedo tutto. Io vedi vedo tutto, ma non commento e non reagisco. Niente. Esatto. Io a me piace, cioè io vedo tutto ma non reagisco a nulla. Faccio finta di nulla, ma sono sempre lì e vedo qualsiasi cosa. Con questi miei occhi di ghiaccio, guarda. È presente il laser? Uguale. Sì. È presente. Tra l'altro abbiamo svuotato il locale perché sono tutti qua davanti, cioè nel senso la pista si è svuotata. Sono tutti qua. Ma sono tutti qua, tutti qua a guardare. Guardalo. Stanno facendo cenni a te adesso? No, ma no, stanno facendo cenni a me di dire delle cose a te, quindi comunque siamo sempre lì. Cristina vuole che tu gli mandi dei bacini, fagli il cuoricino così. Fagli il cuoricino che sono contenti, se lo portano a casa. No, no, invece più lui ha fatto. Ah, no. Adesso è chiaro, adesso, cioè, è stato, capito? Chiaro. Adesso è noi stato siamo chiaro. State persone educate, abbiamo fatto un cuoricino, loro hanno allargato le mani e poi non. Allora, diciamo altro. Per i nostri ascoltatori che il ragazzo sulla destra ha detto a Cristina che vorrebbe tanto girare la polenta con lei. Esatto. Cioè vorrebbe mettersi lì a fare proprio il giro della polenta e ha detto mi piacerebbe molto cucinare la polenta con te e, probabilmente perché ha visto la maglia gialla e è collegato, ha detto, colpito, ha detto secondo me a lei piace girare la polenta, ma molto probabilmente lui non ha capito che la polenta non la girerà mai, non la girerà mai e quindi niente, gli mandiamo, deve tornare a casa a girare la polenta da solo e è comunque brutto pensarlo domani a pranzo a mangiare il brasato senza la polenta, cioè nel senso è parte fondamentale, cioè 50-50 è come l'uomo pensa senza la donna, pensa che prenderà in mano il mestolo se la mescolerà da solo la sì, polenta è un lavoro duro ma ne uscirà vincitore, molto impegnativo, ma ne uscirà vincitore, ne siamo certi e quindi gli auguriamo di cucinare bene e una buona cucina. Ma cosa gli augurate, il brasato domani? E beh, avrà il brasato, se vuol fare la polenta con cosa lo fai, o con lo spezzatino dopo quando o col esco, brasato quando esco, chiedilo. Chiediglielo cosa per pranzo. Ma tu domani, dici, ma cosa mangi a pranzo? Il brasato. E poi gli dirò quello che abbiamo detto noi fino a un secondo fa. Ne sarà contentissimo. Tanto guardale. Qualsiasi occasione per parlare con la Cristina sarà comunque d'oro per loro. Si stanno gesticolando, ma non ho capito cosa stanno dicendo. Io sì, però non te lo dico. Non me lo dici? No. Perché no? Diciamo che stanno guardando dei dettagli di Cristina in questo momento. Questo sta ti dirò, sul vetro, ti dirò anzi sarò più specifico, due dettagli in particolare stanno guardando. Che belle tette che è. No, non sono così banali, fidati. No. Però stanno guardando due dettagli che diciamo per tornare all'esempio, alla metafora cromatica, è come il sole che sorge, no? Escono dal giallo, sorgono dal giallo, dalla zona dove gialla. Dove vanno a vedere il nero? Dove vanno a vedere? Non lo so, glielo chiederemo. Sappi che noi siamo circondati. Sì, sì, ormai è un assalto. Guarda, è un assalto. Diciamo che ci sentiamo un po' come Napoleone a Waterloo. Stanno arrivando da est, da ovest, da nord e da sud. Con la cavalleria, la fanteria, gli arcieri, le catapulte, stanno arrivando con qualsiasi cosa. E meno male che abbiamo due serrature, perché se aprissero. E meno male che abbiamo i vetri antisfondamento, esatto, perché stanno picchiando. Se no faremo dei danni inenarrabili. E se, aiuto! Cristina, amore mio, state ferma, perché se non stai ti muovere ferma. Qui. Esatto. Perché se non stai ferma, facciamo un casino. Se non stai ferma, facciamo scoppiare la terza guerra mondiale. E facciamo dei danni, altro che Trump e Kim Jong-un. Io sto guardando ci vuole un ragazzo la sul, attaccato lì al palo, guardalo là, guarda come sono carini. Ah, lo vedo. Lo vedi? Altro che Kim Jong-un e come si chiama lì, è Trump. Basta la Cristina per scatenare la terza guerra mondiale e le bombe nucleari e far scoppiare le bombe nucleari. Questi continuano a dire. Non ho ancora capito. Però perché. Io devo ammettere che questo ragazzo ha un futuro da mimo. Perché io di tutti i gesti che ha fatto non ne ho capito uno. No, però è bravissimo. Cioè, manda messaggi criptici. Secondo me lui è bravo, bello. Fermati, secondo me lui ha sonno. No, ha sonno. Ma sai, una birra da 25 minuti. Un mojito tira l'altro. Non lo so, che cosa vuol dire questo? Cosa vuol dire? Sì, tu lo capisci? No, non ce la faccio. Si sta retrogradando. Questo arriva con una mezza carta. Ah, è presente John Travolta, uguale. Ah, fa la pubblicità? Può essere? Questo invece ha un fogliettino, cos'è? Rosso, dice, rosso. Cos'è che dice? È rosso, vabbè, insomma, cerchiamo di. Ah, questo okay. Mi butta i baci. Vabbè, continuiamo a buttare baci. Io ragazzi purtroppo sto cercando in tutti i modi di salvarvi dai predatori, per così dire. Ma, certo. Certo. Purtroppo il dovere mi chiama e devo. Oh, mamma mia, che bel momento! Devo lasciarvi andare. Capo è geloso. No. Schifo, via! Bussa via! Calcio, schifo, via! È tua, capo, non te la mollo. Via! Ehi, Satana, via! Bussa via, Satana! No, è tua! No, no, no, no, no, no, no, No, lui ancora che si sta addreggiando con i capelli, non ho ancora capito. Satana. Ok, ci siamo. Arrivano, amico mio. Niente, vi devo liberare, darvi in pasto ai leoni. Grazie. Ce l'ho messa tutta. Sei un amico, guarda. Vabbè, però vi ho tenute qui tanto, libere. Sì. Vi ho salvate un bel po'. Per tanti minuti io non vorrei che questa intervista non finisse mai. Se vi chiedete perché. È bellissimo. Poi arrivo, Grazie ragazze, grazie mille. Al prossimo sabato, come sempre. Un saluto, ciao. Ciao.